Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Il giorno dopo, alle 7 del mattino, il principe fece chiamare il conte Zurla, ministro degli interni. «Voglio che siano di nuovo mandati ordini severissimi a tutti i podestà», gli disse, «perché facciano arrestare il signor Fabrizio del Dongo. Abbiamo saputo che probabilmente avrà l'ardire di rimettere piede nei nostri stati. Attualmente è a Bologna, dove sembra che si diverta a sfidare i nostri tribunali. Dunque, bisogna piazzare agenti che lo conoscano personalmente nei seguenti punti. Primo, nei paesi sulla strada da Bologna a Parma. Secondo, intorno alla villa della duchessa Sanseverina, a Sacca, e intorno alla sua casa di Castelnuovo. Terzo, intorno alla villa del conte Mosca. Voglio sperare, signor conte, che voi saprete operare saggiamente, in modo che nulla di tutto questo giunga all'orecchio di Mosca. E ricordatelo, voglio che lo arrestino, quel del Dongo». Appena il ministro fu uscito, fu la volta di Rassi. Sbucò da una porticina segreta e venne avanti piegato in due, salutando a ogni passo. Aveva una faccia che era un capolavoro, addirittura perfetta per il suo ignobile mestiere. Glielo si leggeva negli occhi, instabili, rapidi, mobilissimi, che sapeva bene quali erano i suoi meriti. La bocca poi era piegata in una smorfia di sicurezza arrogante, segno che lui era pronto a affrontare il disprezzo. Dato che questo personaggio sta per avere una notevole influenza sul destino di Fabrizio, vale la pena di parlarne un po'. Era alto, aveva occhi molto belli, intelligentissimi, ma la faccia tutta butterata dal vaiolo. Ne aveva di talento, e tanto anche. Si diceva che fosse un autentico esperto in diritto, ma la sua vera forza consisteva nel saper sempre trovare qualche espediente. In ogni causa, non importa come si presentasse, lui riusciva sempre a scovare in un attimo e senza sforzo il sistema, più che fondato dal punto di vista giuridico, per arrivare indifferentemente a una condanna o a una assoluzione. In fatto di cavilli, come pubblico ministero, era un maestro. A quanto pareva quest'uomo, che molte grandi monarchie avrebbero invidiato al principe di Parma, non aveva che una passione, una sola, quella di essere in confidenza con le persone importanti, di divertirle con le sue buffonate. Non gli importava se ridevano dei suoi discorsi o di lui, se si lasciavano andare a battute rivoltanti sul conto della signora Rassi. Gli bastava vederli ridere, sentirsi trattato da loro con familiarità, e lui era contento. Era proprio un cortigiano modello. Rassi, un essere senza onore e senza carattere. «Prima di tutto segretezza!» gli gridò il principe senza neanche salutarlo e trattandolo come uno sguattero, lui che era così gentile con tutti. «Che data porta la sentenza?» «Quella di ieri mattina, altezza serenissima. Da quanti giudici è firmata? Da tutti e cinque. E la pena? 20 anni di fortezza, come aveva detto vostra altezza. La pena di morte avrebbe fatto orrore», disse il principe come se parlasse tra sé. «Peccato! Che effetto avrebbe avuto su quella donna? Ma è un del Dongo, e qui a Parma è un nome che stimano molto, con quei 3 arcivescovi, quasi uno in fila all'altro. Allora, 20 anni di fortezza, eh?» «Sì, altezza serenissima», disse Rassi, che continuava a stare in piedi, piegato in due, «previe pubbliche scuse davanti al ritratto di sua altezza serenissima e con in più digiuno a pane e acqua ogni venerdì e tutte le feste più importanti, essendo nota l'impietà del condannato. Questo pensando al futuro, tanto per rovinarlo». «Scrivete», disse il principe. «Sua altezza serenissima, degnatasi di ascoltare con benevolenza l'umilissima supplica della Marchesa del Dongo, madre del condannato, e della Duchessa Sanseverina, zia dello stesso, le quali hanno tenuto a far presente che al momento del crimine il loro rispettivamente figlio e nipote era molto giovane e altresì sconvolto dalla folle passione che egli aveva concepita per la donna dello sventurato Giletti, malgrado l'orrore che tale delitto non può non ispirare, si è degnata di commutare la pena cui è stato condannato Fabrizio del Dongo in quella di 12 anni di fortezza. Date qua che firmo». Il principe firmò e mise la data del giorno prima, poi restituì la sentenza a Rassi dicendogli: «Adesso scrivete subito sotto la mia firma». essendosi la duchessa Sanseverina nuovamente inginocchiata a supplicare ai piedi di Sua Altezza, il principe ha consentito che ogni giovedì il condannato possa godere di un'ora d'aria sulla terrazza della torre, volgarmente detta Farnese. Ecco, e adesso metteteci la vostra firma. Mi raccomando, bocca chiusa, qualsiasi cosa dicano in giro. La marchesa Raversi era furibonda, ma lei non era una di quelle donnicciuole che credono di vendicarsi parlando male dei loro nemici. Un giorno, che aveva ricevuto molte lettere da Parma e da Bologna, la Raversi si ritirò piuttosto presto. La cameriera più fidata fece entrare l'amante in carica, il conte Baldi, un giovanotto molto bello e del tutto insignificante, e più tardi anche il cavalier Riscara, suo predecessore. «Ho la buona abitudine», disse la Raversi, «di non buttare mai via un pezzo di carta. Mi è molto utile, sapete. Queste sono 9 lettere che la Sanseverina mi ha scritto in varie occasioni. Adesso voi partirete tutti e 2 per Genova e andrete a cercarmi in mezzo ai galeotti un tale, uno che faceva il notaio. Si chiama Buratti, mi pare, come il poeta, o Duratti. Baldi, mettetevi al tavolino e scrivete quello che vi detto. Mi è venuta un'idea e ti scrivo 2 righe. Vado a Castelnuovo, nella mia capanna. Se vuoi venire a passare qualche ora con me, ne sarò felicissima. Non mi sembra che ci sia poi un gran pericolo dopo tutto quello che è successo. Sta tornando il bel tempo. In ogni caso, aspetta prima di entrare in Castelnuovo. Troverai uno dei miei domestici. Ti vogliono tutti un gran bene. Naturalmente, durante tutto questo viaggetto, terrai il nome di Bossi. Dicono che ti sei fatto crescere un barbone da cappuccino e a Parma ti hanno visto soltanto senza barba, come si conviene a un bravo vicario. Tu hai capito, Riscara? Perfettamente. Ma il viaggio a Genova mi sembra un lusso inutile. Conosco uno a Parma che, anche se non è ancora in galera, ci finirà senz'altro e che saprà imitare alla perfezione la scrittura della Sanseverina. Baldi spalancò i suoi begli occhioni. Era riuscito a capire, semplicemente. Se tu la conosci, questa brava persona per cui speri in una promozione, vuol dire che anche lui conosce te, disse la Raversi a Riscara. La sua amante, il suo confessore, un suo amico, potrebbero essere tutti venduti alla San Severina. Meglio rimandarlo di qualche giorno, questo bello scherzetto, e non correre rischi. Adesso, buoni buoni come due agnellini, andate a Genova. Non fatevi vedere da nessuno e tornate presto. Riscara scappò via ridendo buffonescamente. Parlava nel naso come Pulcinella. Qui bisogna far fagotto, diceva. Voleva lasciarli soli. Glielo riportò 5 giorni dopo alla Raversi il suo conte Baldi, ma tutto scorticato. Avevano preso una scorciatoia in montagna a dorso di mulo e Baldi giurava che non ci sarebbe più cascato a fare un grande viaggio. Poi consegnarono alla Raversi 3 copie della lettera che lei aveva dettato e altre 5 o 6 lettere scritte con la stessa scrittura e composte da Riscara, che un giorno o l'altro avrebbero potuto venir buone. E chiunque avrebbe giurato che quelle lettere erano state scritte dalla San Severina. Adesso lo so con certezza, disse alla Raversi. Il suo amichetto Fabrizio è a Bologna o nei dintorni. Riscara partì da solo. Era arrivato a Bologna appena da 2 giorni quando vide passare su un calesse Fabrizio e la Marietta. Accidenti, pensò. A quanto pare il nostro futuro arcivescovo non sta perdendo tempo. Bisognerà farlo sapere alla San Severina, chissà come sarà contenta. Per venire a sapere dove abitasse Fabrizio, gli bastò seguirlo. Il giorno dopo, Fabrizio ricevette quella lettera di fabbricazione genovese. Gli sembrò un po' troppo breve, ma non ebbe nessun sospetto. Ludovico cercò di trattenerlo, ma lui era così contento all'idea di rivedere Gina e Mosca che saltò subito a cavallo e partì al galoppo. Senza farsi accorgere, Riscara lo seguiva a poca distanza e a 6 leghe da Parma, alla posta prima di Castelnuovo, Riscara ebbe la gradita sorpresa di vedere che la piazza davanti alla prigione era piena di gente. Avevano appena arrestato il nostro eroe. Era stato riconosciuto da 2 agenti di Zurla mentre cambiava cavallo alla stazione di posta. 2 ore più tardi, il povero Fabrizio, ammanettato e legato da una lunga catena al calesse su cui l'avevano fatto salire, partiva per la cittadella di Parma sotto la scorta di 8 gendarmi. I gendarmi avevano l'ordine di portare con loro tutti gli agenti di stanza nei paesi attraverso i quali sarebbero passati e a accompagnare quel prigioniero tanto importante era venuto anche il podestà di Castelnuovo. Verso le 7 di sera il calesse, seguito da 30 di gendarmi e da tutti i ragazzini di Parma, attraversò la passeggiata e finalmente arrivò alla porta esterna della cittadella. Proprio in quel momento stavano uscendo il generale Fabio Conti e la figlia. La carrozza del governatore si fermò prima del ponte levatoio per lasciar passare il calesse con il prigioniero. Poi il generale gridò di chiudere le porte e si precipitò all'ufficio d'entrata a vedere di che si trattava. Restò sbalordito quando riconobbe il prigioniero. Dopo essere rimasto legato per tanto tempo, Fabrizio era tutto rattrappito. 4 gendarmi stavano portandolo dentro di peso. È da quasi un anno che a Parma in società non si parlava che di lui. pensò il vanitosissimo governatore, e adesso ce l'ho in mano io, il famoso Fabrizio del Dongo. Si erano incontrati mille volte a corte o a Palazzo San Severina, ma il generale, per paura di compromettersi, si guardò bene dal mostrare di riconoscerlo. «Voglio un verbale circostanziato», gridò al funzionario, «sulla consegna di questo prigioniero da parte del Egregio Podestà di Castelnuovo». Il funzionario, un certo barbone, un tipo terribile per il volume della sua barba e per il suo modo di fare militaresco, si diede ancora più aria del solito. Sembrava un secondino tedesco. Secondo lui, se il suo padrone non era diventato ministro della guerra, la colpa era tutta della duchessa Sanseverina. E così fu più villano che mai con il prigioniero. Lo trattava come si tratta un servitore. «Sono un sacerdote della Santa Chiesa», gli disse Fabrizio con fermezza, «e vicario di questa diocesi, e poi basta il mio nome per darmi diritto a certi riguardi». «Io non ne so niente», rispose villanamente Barbone. «Dovete dimostrarmelo, quello che dite. Fatemi vedere i documenti che vi danno diritto a questi rispettabilissimi titoli». I gendarmi gli levarono le manette. Ora che sapevano che era nipote della duchessa Sanseverina, si erano fatti untuosi, cortesissimi. Era un atteggiamento che contrastava nettamente con le brutte maniere di Barbone. E quello, seccato, disse a Fabrizio, che era rimasto fermo: «Andiamo, sbrigatevi, fateci vedere quei graffi che vi ha fatto il povero Giletti quando lo avete assassinato». Fabrizio gli saltò addosso, gli diede un tale schiaffo che Barbone cadde giù dalla sedia, sulle gambe del generale. Fabrizio era rimasto immobile e dei gendarmi lo presero per le braccia. Il generale e i due gendarmi aiutarono Barbone a alzarsi. Aveva la faccia piena di sangue. Clelia, che si era rannicchiata sul sedile per non vedere la triste scena che si svolgeva nell'ufficio, a sentire tutto quel rumore mise fuori la testa. «Che cosa succede?» chiese al brigadiere. «È il giovane del Dongo che ha dato una sberla a quel villano di Barbone, signorina». «Come? È il signor del Dongo che stanno portando in prigione?» «Certo», disse il brigadiere. «È perché quel povero giovanotto è un del Dongo che fanno tante cerimonie. Credevo che la signorina lo sapesse». Clelia rimase al finestrino a guardare. A un certo punto i gendarmi che stavano intorno al tavolo si scostarono e lei poté vedere il prigioniero. Chi l'avrebbe detto, quando ci siamo incontrati vicino a Como, che l'avrei rivisto in una circostanza così tremenda? Mi ha dato la mano per aiutarmi a salire in carrozza. Mi ricordo che c'era anche la duchessa. Chissà se si amavano già. Negli ambienti del Partito Liberale, intorno alla Raversi e al generale Fabio Conti, tutti mostravano di non aver dubbi sulla relazione tra la duchessa e Fabrizio, e la credulità dell'odiatissimo conte Mosca era oggetto di grandi scherzi. «E adesso», pensava Clelia, «è prigioniero, prigioniero dei suoi nemici. Perché in fondo il conte Mosca, anche se è un santo, non può che esserne contento». Barbone era stato sostituito da un secondino che sapeva scrivere, e ora Clelia lo vide uscire dall'ufficio. Stava asciugandosi con un fazzoletto il sangue che gli colava dalla faccia. Urlava: «Quel fottuto di Fabrizio! Glielo voglio portar via al boia! Voglio fargli la pelle io, con queste mani!» Continuando a imprecare, si era fermato tra la carrozza e la finestra per guardar dentro. «Fila», gli disse il brigadiere, «non si parla così davanti alla signorina». Barbone alzò la faccia per guardare dentro la carrozza. Clelia gridò terrorizzata. Non l'aveva mai vista così da vicino, una faccia tanto feroce. «Lo ucciderà», pensò. «Devo dirlo a Don Cesare». Don Cesare era suo zio, un sacerdote tra i più rispettabili di tutta la città. Era fratello del generale Conti e questi gli aveva fatto avere il posto di economo e di primo cappellano della prigione. Dopo un po' il generale risalì in carrozza. «Preferisci tornare a casa», disse alla figlia, «o vuoi venire a palazzo e stare a aspettarmi in cortile? Ma guarda che forse ne avrò per molto. Devo andare a informare Sua Altezza». Fabrizio era uscito scortato da tre gendarmi. Stavano portandolo nella stanza che gli era stata assegnata. Clelia guardava dal finestrino. Ora il prigioniero era vicinissimo. In quel momento lei rispose al padre con queste parole: «Verrò con voi». Fabrizio sentì, alzò la testa, si guardarono negli occhi. Fabrizio fu colpito soprattutto dall'espressione malinconica della ragazza. «Com'è diventata bella», pensò, «da quella volta che ci siamo incontrati vicino a Como, e come deve essere intelligente anche. Hanno ragione quando dicono che assomiglia a Gina. Che faccia stupenda! Fabrizio, in mezzo a quei gendarmi, era stupendo. Com'era nobile e orgogliosa la sua faccia. Che incredibile contrasto fra i suoi lineamenti delicati, il suo leggero sorriso di disprezzo e le facce pesanti dei gendarmi. Ma tutto questo era soltanto l'aspetto esteriore della sua fisionomia. Era esaltato dalla bellezza di Clelia e il suo sguardo tradiva la sua sorpresa. Clelia, tutta assorta, non aveva pensato a tirarsi indietro. Lui la salutò con un mezzo sorriso rispettoso, poi, dopo un momento, le disse: «Mi sembra, signorina, di avere già avuto l'onore di incontrarvi su uno sfondo di gendarmi una volta vicino a un lago». Clelia diventò rossa. Non riuscì a dire una parola. Quando Fabrizio le aveva parlato, lei stava pensando: «Che aria nobile a lui in mezzo a quegli uomini orribili». La compassione, la tenerezza quasi che provava, la resero incapace di trovare una qualsiasi risposta e se ne rese conto e diventò ancora più rossa. In quel momento sentì il frastuono dei catenacci della porta grande. Era già almeno un minuto che la carrozza di Sua Eccellenza stava aspettando. Il rumore echeggiò profondamente sotto le volte. Anche se lei avesse trovato qualcosa da dire, Fabrizio non avrebbe potuto sentirla. La carrozza del governatore della cittadella rimase più di un'ora e mezzo nel cortile del palazzo del principe. Eppure, quando il generale tornò dall'udienza, a Clelia non parve che fosse rimasto via molto tempo. «Che cosa ha detto Sua Altezza?» domandò Clelia. «La prigione, mi ha detto, ma da come mi ha guardato sembrava che dicesse la morte». «La morte? Oh, signore!» gridò Clelia. «E sta zitta!» disse il generale, irritato. «Sono proprio uno stupido a dar retta a una bambina». Intanto Fabrizio stava salendo i 380 scalini che portano alla Torre Farnese, la prigione costruita a grande altezza sulla terrazza della Torre Grande. Non ci pensò neanche una volta, coscientemente almeno, a tutto quanto era capitato a sconvolgergli l'esistenza. «Che occhi!» pensava. «E quante cose dicevano quegli occhi, quanta compassione! Sembrava che mi dicesse: la vita è piena di dolore, non amareggiatevi, perché noi siamo nati per soffrire». E ha continuato a guardarmi anche quando i cavalli si sono mossi in tutto quel fracasso sotto la volta. Stava dimenticandosi completamente le sue disgrazie. Da quando suo padre era stato nominato governatore della cittadella, Clelia, nel suo appartamento così in alto, si sentiva felice o almeno libera da ogni preoccupazione. la spaventosa lunghezza della scala che bisognava salire per arrivare al palazzo del governatore, situato sulla terrazza della Torre Grande, teneva lontane le visite noiose, e questo semplice fatto bastava a far sì che Clelia sentisse di poter godere di quella particolare libertà che avrebbe trovato in un convento. La sera del giorno in cui Fabrizio era stato portato alla cittadella, la duchessa incontrò Clelia nel salotto del conte Zurla, ministro degli interni. Vennero tutti intorno alle due donne. Clelia era la più bella quella sera. Nei suoi occhi c'era un'espressione così strana, così profonda, da farli quasi sembrare indiscreti. C'era compassione e anche indignazione, collera, nel suo sguardo. La gaiezza, le battute spiritose della duchessa sembrava che le facessero male, che la spaventassero. Come dovrà piangere e gridare, povera donna, pensava, quando saprà che il suo amante è in prigione, lui così generoso, con la sua aria così nobile, e il principe che aveva negli occhi la condanna a morte. Quando finirà questo potere assoluto che pesa sull'Italia? Com'è ignobile tutta questa gente! E io sono la figlia di un carceriere, e gli ho fatto onore a questo bel titolo, quando non mi sono degnata di rispondere a Fabrizio, anche se una volta lui mi aveva aiutata. Che cosa penserà di me adesso, solo, nella sua stanza davanti a un lumicino? Si sentiva sconvolta a pensarci. Guardò tutte quelle luci che illuminavano il salotto del ministro degli interni. Le facevano orrore. Verso le 10, un amico della duchessa le venne vicino e le disse qualcosa sottovoce. Lei diventò terribilmente pallida. Clelia le prese la mano, trovò il coraggio di stringergliela. «Grazie. Ho capito adesso. Siete buona, sapete?» disse Gina, dominandosi, e non riuscì a dire altro. Guardando la duchessa attraversare il salotto pieno di gente elegante, a Clelia vennero le lacrime agli occhi. «Che cosa farà adesso, povera donna?» pensò, «quando sarà sola nella sua carrozza. Ma non posso offrirmi di accompagnarla. Sarebbe un'indiscrezione, non ho il coraggio. Sarebbe contento lui, chiuso nella sua stanza davanti a un lumicino, se sapesse che lei gli vuol bene fino a questo punto.» Thank you.